pronti? Torre. Partito. Ciak. Azione. E mentre voi femminucce vi godete questo bel giro panoramico, io vi aspetterò dall'altra parte, rilassandomi coi miei pensieri. Audiogrammi di Laura Faggin e Paolo Corleoni. You are a cinema, a Hollywood treasure. I love you just the way you are, a cinema, a cinema. Stiamo per raccontarvi Stand By Me, ricordo di un'estate, di Rob Reiner. È il racconto del viaggio di quattro amici adolescenti alla ricerca del cadavere di un coetaneo. Un viaggio che si rivelerà uno dei riti di passaggio più importanti della loro vita. Action, thriller, I could watch you forever. You are a cinema, a Hollywood treasure. Audiogrammi, in radio, come al cinema. Impressioni diverse per persone diverse, dicono, ed è esatto. Così se vi dico estate, voi riceverete un insieme di immagini private, personali, che sono completamente differenti dalle mie. Regolare, ma per me estate significherà sempre correre lungo la strada verso il Florida Market con le monete che mi risuonano in tasca, la temperatura allegramente oltre i 40, i piedi nelle scarpe da tennis. La parola mi evoca l'immagine delle rotaie della ferrovia che corre verso un punto di fuga in lontananza, così bianche e luccicanti sotto il sole che quando chiudo gli occhi le vedo ancora lì, nel buio, solo blu invece che bianche. C'erano i Fleetwood, Robin Luke e Little Anthony. Erano tutte hit di quell'estate del 1960? Sì e no, per lo più sì. Ehi là, qui è il vostro numero uno, Bob Cornier, da Radio KLAF. Ci sono 28 megagradi all'ombra, il termometro sale e sul piatto... Nelle lunghe serate violacee, quando il rock and roll della stazione WLAM si confondeva con le partite notturne di baseball, il tempo slittava. Io credo che fosse tutto il 1960. E che l'estate andò avanti per anni, mantenuta magicamente intatta da una ragnatela di suoni. Il dolce canto dei grilli, la raffica di mitra delle carte da gioco che crepitano contro i raggi della bici di qualche ragazzo che pedala verso casa per una cena di affettati freddi. La piatta voce texana di Buddy Knox che canta e la voce del radiocronista delle partite di baseball, che si mescola alla canzone e al profumo d'erba appena tagliata. Ted Williams giocava ancora nei Red Sox nel 1960. Ci potete scommettere che ci giocava. Me lo ricordo perfettamente. Il baseball era diventato importante per me nell'ultimo paio d'anni. Da quando avevo dovuto accettare l'idea che i giocatori di baseball erano di carne e ossa come me. Questa consapevolezza mi era arrivata quando la macchina di Roy Campanella si era ribaltata e i giornali strillavano notizie ferali dalle prime pagine. La sua carriera era finita. Avrebbe passato il resto della vita su una sedia a rotelle. Con che forza questo mi tornò in mente? Con lo stesso urto mortale, quando sedetti a questa macchina da scrivere una mattina di 2 anni fa. Accesi la radio e sentii che Thurman Munson era morto tentando di far atterrare il suo aereo. C'erano i film da andare a vedere al GEM, che da tempo è stato abbattuto, film di fantascienza, western e film di guerra con John Wayne. C'erano le partite e i pasti mandati giù in fretta, prati da falciare, posti dove correre, muri da tirarci contro le monetine, gente che ti dava pacche sulla spalla. E ora sto qui seduto e cerco di guardare attraverso la tastiera di un 18M e di vederci quel tempo. Cerco di ricordare il meglio e il peggio di quell'estate verde e bruna. E se riesco quasi a sentire quel ragazzino smilzo e pieno di croste ancora sepolto in questo corpo che avanza. A sentire quei suoni. Ma c'era dell'altro in quell'estate. C'era l'avventura di Gordon, Vern, Teddy e Chris, 4 ragazzini di 12 anni che partirono per un'escursione di 50 km lungo la ferrovia, affrontando varie avventure alla ricerca del cadavere di Ray Brower, un ragazzo scomparso qualche giorno prima. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Teddy Duchamp era il ragazzo più matto della nostra banda. Non ebbe mai una chance nella vita. Suo padre soffriva di violenti attacchi d'ira. Una volta premette l'orecchio di Teddy sulla stufa e quasi glielo carbonizzò. Chris Chambers era il nostro capo e il mio migliore amico. La sua famiglia aveva una pessima reputazione e in paese erano tutti convinti che Chris avrebbe fatto una brutta fine. No! Estate 1959, Castle Rock, Oregon. Gordon LaChance correva lungo la strada verso il Florida Market con in tasca gli spiccioli e il sudore che gli correva sulla schiena. Entrò in un market e chiese 3 libbre di carne da hamburger, qualche panino, 4 bottiglie di coca e un cavatappi da 2 centesimi per aprirle. Il proprietario, uno che si chiamava George Doucet, prese la carne e poi si chinò vicino al registratore di cassa. Una mano enorme piantata sul banco vicino al grande vaso delle uova sode, uno stuzzicadenti in bocca, la pancia gonfia di birra che tendeva la maglietta bianca come una vela piena di buon vento. Il proprietario lo fissò per tutto il tempo mentre il ragazzo faceva la spesa, per accertarsi che non tentasse di fregare niente. Non disse una parola finché non si mise a pesare la carne degli hamburger. Ecco qua, 1,50 dollari di hamburger. Gordon, il ragazzo, appoggiò 1 dollaro sul banco davanti a lui. Il proprietario guardò i soldi e poi Gordon. Il cipiglio ora era tremendo, le rughe sulla faccia profonde come crepacci. «Che fai, ragazzino?» disse con una voce bassa, minacciosamente confidenziale. «Vuoi fare il furbo?» «No, signore», disse Gordon. «Ma lei non riuscirà a fregarmi e a farla franca. Ha sbagliato la somma. Che direbbe sua mamma se sapesse che frega i ragazzini?» Doucet infilò la roba nel sacchetto di carta con rapidi movimenti bruschi, facendo urtare rumorosamente tra loro le bottiglie di coca. Spinse rozzamente la borsa verso Gordon e senza far caso che la prendesse o che la lasciasse cadere rompendo tutte le bottiglie. La sua faccia, scura di carnagione, era avvampata e torbida, il cipiglio rimasto lì, congelato. «Ok, ragazzo, adesso vattene. Quello che fai adesso è che tu te ne vai fuori dal mio negozio. Se ti vedo un'altra volta qua dentro, ti butto fuori io», disse il proprietario. A Gordon non rimase che insultarlo e fuggire a razzo dal negozio. Sentì la porta aprirsi sbattendo come una fucilata. Corse finché non fu oltre la prima salita, impaurito e ridendo tra sé, col cuore che gli batteva come un martello dentro al petto. Poi rallentò fino a un'andatura di passo veloce, guardandosi ogni tanto alle spalle per accertarsi che Doucet non si fosse messo a seguirlo con la macchina o che so. Si mise la borsa di carta dentro la camicia, si arrampicò sul cancello del cortile della discarica e si calò come una scimmia dall'altro lato. Era a metà strada verso l'area dello scarico quando vide una cosa che non gli piacque. La Buick 56 di Milo Pressman, il guardiano, parcheggiata vicino alla baracca di cartone catramato. Se Milo lo avesse visto, si sarebbe trovato in un mare di guai, ma fin lì non c'erano segni né di lui né del suo famigerato cane Chopper, ma improvvisamente il reticolato in fondo alla discarica gli parve lontanissimo. Avrebbe desiderato fare il giro dall'esterno, ma ormai era troppo tardi per aver voglia di girarsi e tornare indietro. Se lo avessero beccato a scavalcare, probabilmente si sarebbe trovato nei guai una volta tornato a casa. Ma questo non lo preoccupava quanto l'idea del guardiano che gridava a Chopper di attaccare. Il violino della paura prese a suonargli nella testa. Cominciò a mettere un piede dopo l'altro tentando di mostrarsi disinvolto, di confondersi con l'ambiente mentre quel sacchetto di carta della spesa che gli gonfiava la camicia si dirigeva verso la rete che divideva la discarica dai binari della ferrovia. Gordon era a 15 metri dal reticolato e cominciava a pensare che sarebbe andato tutto bene dopo tutto, quando sentì Milo che urlava. Ehi, ragazzino, che ci fai laggiù? Vieni subito qui! Torna indietro, fermati o ti faccio azzannare da quella parte! Brigati! Sotto, Chopper! Sotto a quello! Milo diceva sotto a quello, ma l'incitamento che sentivo io era sotto alle palle. La cosa saggia da fare sarebbe stata accettare il consiglio di Milo e fare dietro front, ma ormai era così eccitato che invece di fare la cosa saggia si mise a correre verso il reticolato con un urlo selvaggio, sollevando una nuvola di polvere. Vern, Teddy e Chris vennero fuori dai cespugli dall'altra parte della rete, incitandolo. corse ancora più forte, agitando le braccia, il sacchetto marrone che gli scricchiolava contro la pelle, e finalmente si accorse che Chopper non era il gigantesco cane feroce che dicevano in giro, ma un normalissimo cagnolino rumoroso. E quello sarebbe Chopper! Chopper costituì la mia prima lezione sulla grande differenza che corre tra leggenda e realtà. Avanti, Choppy! Avanti! Forza, Choppy! Mordi! Ehi, voi! Choppy! Smettetela di molestare quel cane, avete capito? Audiogrammi Radio 24 è anche su Facebook e in podcast su radio24.it. Ma che bisogno abbiamo di una pistola? I baschi fanno paura di notte. Potremmo incontrare un orso o un bidone della spazzatura. Io ho portato un pettine. E che ci fai con un pettine? Per essere belli per la televisione. Buona idea, Vern. Grazie. Due botte per penitenza. Il caldo pomeriggio andava avanti sonnolento e Gordon, Vern, Teddy e Chris camminavano lungo la ferrovia, parlando del viaggio e della scuola che presto sarebbe ricominciata e li avrebbe visti prendere per la prima volta strade diverse. In un certo senso strano, ci si può anche sentire eccitati per le lunghe e pallose lezioni, perché con l'avvicinarsi della fine delle vacanze estive, a volte, ci si sente così stufi da credere che sia possibile anche imparare qualcosa. Ma la noia estiva non ha niente a che fare con la noia della scuola, che si instaura immancabilmente entro la fine della seconda settimana e all'inizio della terza sei immerso nella sostanza vera della faccenda. Sarai in grado di colpire Stinky dietro la testa con la tua art gum mentre l'insegnante sta scrivendo sulla lavagna le principali esportazioni del Sud America? Quanti bei cigolii forti sarai capace di estrarre dalla superficie verniciata del banco se hai le mani sudate come si deve? Quante ragazze sarai capace di portarti a giocare al dottore nell'ora di pranzo? Istruzione superiore, gente. Quanta strada ci sarà da fare? Se seguiamo le rotaie fino ad Arlo, saranno 30 chilometri. Tu dici di no, Gordy? Sì, sì, magari anche 40. Ehi, ma non si potrebbe fare l'autostop? Avevano rallentato il passo. Vern e Teddy erano ormai quasi mezzo miglio avanti. Il sole, ora più basso, gli arrivava attraverso l'intrico degli alberi, in raggi spezzati e polverosi, mutando tutto in oro. Ma era un oro pacchiano, da bottega di paccottiglia, se capite che intendo. I binari si stendevano davanti a loro e nella foschia che cominciava a raccogliersi sembravano quasi scintillare. Puntini luminosi come stelle brillavano sulle rotaie qua e là, come se qualche ricco strampalato travestito da operaio delle ferrovie avesse deciso di ficcare un diamante nell'acciaio ogni 60 metri. Faceva ancora caldo. Il sudore gli scorreva addosso, ungendo i loro corpi. Potremmo fare la statale 7 fino alla chiesa e poi prendere la stradina per Arlo. Al tramonto saremmo lì. È da femminuccia. Sì, ma è troppo lontano. Tua madre ce l'ha qualche figlio vivo? Che vuoi dire? Nah. Dalla faccia sembrava che Teddy avrebbe tirato un pugno a Gordon. Era proprio quella faccia stizzita e un po' a punta che di solito precede le botte. Gordon aveva appena infranto la regola base che vigeva tra i ragazzi a quei tempi. Potevi dire qualsiasi cosa di un altro ragazzo. Potevi trattarlo come un cane, ma non dovevi mai dire niente di male di sua madre e suo padre. Se un compagno parlava a sproposito di tua madre o di tuo padre, eri proprio obbligato a fargli assaggiare i pugni. Chris Chambers conosceva bene il sapore dei pugni. L'anno prima era stato sospeso da scuola per aver rubato i soldi del latte. Aveva sempre giurato di non essere stato lui, ma fu quella volta che Mr. Chambers lo mandò per una notte all'ospedale. Quando sentì che Chris era stato sospeso per il furto, gli ruppe il naso e il polso destro. Chris veniva da una brutta famiglia, d'accordo, e tutti pensavano che anche lui sarebbe finito in prigione come i suoi fratelli. Nell'accampamento si raccontarono solo storie di fantasmi e di spettri urlanti. La notte era tutt'altro che silenziosa. Si sentiva il verso trionfante del gufo che piombava sulla preda, l'esile grido di qualche piccolo animale forse sul punto di essere mangiato, un qualcosa di più grosso strisciare irrequieto nell'intrico del sottobosco. Oh mio Dio! È il fantasma di Ray Brower. Di notte si aggira per i boschi. Prometto che non dirò più parolacce, non venderò giornaletti sporchi, mi lascerò fare le iniezioni, sacrosanto! Due botte per penitenza. Su tutto questo, il canto continuo dei grilli. Forse dovremmo fare dei turni di guardia. Sì, buona idea. Naturalmente la guardia toccò anche a Teddy, ma lui non riusciva proprio a stare sveglio. Sonnecchiava e si svegliava. Sonnecchiava e si svegliava di nuovo. E probabilmente se fosse stato scoperto a fare la guardia in questo modo, sarebbe stato portato davanti alla corte marziale e fucilato. Poi Teddy fece un sobbalzo più forte uscendo dal suo ultimo sonnellino e si rese conto che c'era qualcosa di cambiato. Gli ci volle un momento per capire cosa. Anche se la luna era tramontata, poteva vedere le sue mani appoggiate sui jeans. L'orologio diceva 5 meno un quarto. Era l'alba. Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day it's getting faster. Everyone said go ahead and ask her. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day seems a little longer. Every way love's a little stronger. Come what may, do you ever long for true love from me? Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Love like yours will surely come my way. Gordon si alzò, sentendo la spina dorsale che gli scricchiolava. Si allontanò di una ventina di passi dai corpi ammucchiati uno sull'altro dei suoi amici e orinò nei cespugli. Cominciava a scuotersi di dosso le ragnatele della notte. Le sentiva allontanarsi. Era una bella sensazione. Si arrampicò sui ciottoli della linea della ferrovia e si mise seduto su uno dei binari, giocherellando oziosamente con i sassi tra i piedi, senza fretta di svegliare gli altri. In quel momento preciso, il nuovo giorno pareva troppo bello per dividerlo con gli altri. Il mattino arrivò presto. Il verso dei grilli cominciò a calare e le ombre sotto gli alberi e i cespugli evaporarono come pozzanghere dopo un acquazzone. L'aria aveva quella tipica mancanza di sapore che segnala l'ultimo giorno caldissimo di una serie di giorni caldissimi. Uccelli che probabilmente erano rimasti rintanati tutta la notte come loro, ora cominciavano a trillare con aria di importanza. Uno scricciolo si posò in cima all'albero morto da cui avevano preso la legna. Si lisciò le penne col becco, poi spiccò il volo. Non so quanto tempo rimase seduto lì sulla rotaia, a guardare il colore viola uscire dal cielo, silenzioso come la sera prima quando c'era entrato. Abbastanza, comunque, perché il suo sedere cominciava a lamentarsi. Stava per alzarsi quando guardò verso destra e vide una daina sul lato della ferrovia a meno di 10 metri da lui. Il cuore gli saltò in gola, così in alto che avrebbe potuto mettersi una mano in bocca e toccarlo. Sentì lo stomaco e i genitali riempirsi di un'eccitazione rovente. Non si mosse. Non avrebbe potuto nemmeno volendo. Gli occhi della daina non erano marroni, ma di un nero profondo, polveroso come il velluto che si vede sul fondo delle vetrine delle gioiellerie. Le piccole orecchie erano di una pelle vellutata. L'animale lo guardava con tranquillità, la testa leggermente inclinata in quella che gli parve un'espressione di curiosità a vedere un ragazzo con i capelli arruffati per il sonno, con i jeans con i risvolti e una camicia beige con le toppe ai gomiti e il colletto rialzato. Quello che vedeva Gordon era una sorta di dono, un dono offerto con una disinvoltura che lo spaventava. Si guardarono a lungo. Poi la daina si girò e si allontanò dall'altra parte della ferrovia, con la coda corta che scattava svogliata. Trovò dell'erba e prese a brucarla. Gordon non poteva crederci. Si era messa a brucare. Non guardava nemmeno nella sua direzione e non ne avrebbe avuto bisogno. Lui era completamente paralizzato. A un tratto i binari si misero a tremare sotto il suo sedere. E pochi secondi dopo la testa della daina si sollevò, girata verso Castle Rock. Rimase ritta lì, il naso nero che annusava l'aria. Poi, in tre salti, scomparve, svanendo nel bosco senza altro rumore che quello di un ramo marcio, che si spezzò con uno scatto secco. Gordon rimase come ipnotizzato, seduto a guardare il punto dove era stata la Dinah, finché lo sferragliare del treno merci non emerse dal silenzio. Il merci svegliò gli altri, e io stavo per raccontargli del Dino. Ma non lo feci. È stata l'unica cosa che ho tenuto per me. Non ne avevo mai parlato né scritto fino ad ora. Allora scivolò giù dalla massicciata fino a dove gli altri stavano dormendo. Il lento, fragoroso passaggio del convoglio li svegliò e si misero tutti subito a sbadigliare e a grattarsi. Ci furono un po' di battute nervose sul caso dello spettro urlante, come lo chiamò Chris, ma non quanto potreste immaginare. Alla luce del sole sembrava più stupido che interessante, quasi imbarazzante. Meglio dimenticare. Sempre pronto a partire dove chiama il destino, senza tregua cavalca dalla sera al mattino. La pistola veloce che difende il meschino, soldato di ventura che si chiama Paladin. Ehi, io ho fame, chi ha portato le provviste? Nessuno di voi ha portato niente. Io no. Gordy? Oh, questo è un bel casino. E adesso che ci mangiamo? I calzini? Email audiogrammi@radio24.it. I quattro si rimisero in marcia lungo i binari. Nessuno sa quando passa il prossimo treno. Possiamo fare il ponte della statale 136. Di un po', sei matto? Ma sei a 7 km più a valle. Dobbiamo fare 7 km all'andata e 7 km al ritorno. A quel punto sarà buio. Passiamo questo ponte e arriveremo nello stesso posto in 10 minuti. Già, ma se il treno arriva non andremo più in nessun posto. Non c'è pericolo, ci tuffiamo. Ehi, saranno 30 metri. 30 metri. Sentite, voi fate il giro se avete paura. Io passerò di qui. E mentre voi, femminucce, vi godete questo bel giro panoramico, io vi aspetterò dall'altra parte, rilassandomi con i miei pensieri. Almeno abbiamo saputo a che ora passa il treno. Probabilmente anche Ray Brower aveva sfidato il treno, ma forse a lui l'incontro era andato peggio che a Vern. Ma com'era successo che il macchinista non l'aveva visto? Era possibile che il treno l'avesse colpito forte abbastanza da scaraventarlo via, ma non da ucciderlo? Il treno lo aveva colpito con un colpo forte laterale mentre lui cercava di togliersi dalla via ferrata? Colpito e lanciato all'indietro in volo, oltre la parte franata della massicciata? Gordon pensava che con questa combinazione di circostanze poteva essere accaduto. O forse era morto di paura. One, two, three, hey. Look at Mr. Lee. Three, four, five, hey. Look at him turn. Mr. Lee, Mr. Lee, Mr. Lee, Mr. Lee, Mr. Lee. Una volta un uccello con le penne della coda rotta gli era morto tra le mani proprio in questo modo. Il suo corpo tremava e vibrava leggero, il becco si apriva e si chiudeva, gli occhi neri e brillanti lo fissavano. Poi la vibrazione cessò, il becco si irrigidì semiaperto e gli occhi neri si fecero opachi e indifferenti. Forse era stato così anche per Ray Brower. Poteva essere morto perché era semplicemente troppo spaventato per continuare a vivere. ma c'era anche un'altra cosa, e questa turbava Gordon più di tutte. Ray era partito per andare a mirtilli. Gli sembrava di ricordare che la radio aveva detto che portava una pentola per mettere i mirtilli. Quando tornarono a Castle Rock, andò in biblioteca e guardò i giornali per accertarsene, e aveva ragione. Ray Brower era andato per frutti di bosco e aveva con sé un secchiello, una pentola o qualcosa del genere. Ma loro non l'avevano mai trovata. Avevano camminato tutta la notte. Nessuno si era lamentato, anche se avevano tutti le vesciche ai piedi ed erano affamati. Gordon sentiva la testa che gli pulsava con un'emicrania che lo uccideva e si sentiva le gambe spezzate e brucianti dalla stanchezza. Due volte dovettero scendere di corsa dalla massicciata per togliersi dalla via dei treni merci. Uno di loro andava nella loro direzione, ma troppo veloce per saltarci su. Daddy! Sì? È questa la stradina di Arlo? È questa. Allora Brower deve essere da queste parti. Teddy, tu e Vern cercate a sinistra, noi andremo a destra. Va bene. Eccolo là, l'ho visto, venite, guardate, è laggiù, l'ho trovato io! Restammo senza fiato. Sotto quei cespugli c'era il corpo di Ray Brower. Non era svenuto e non stava dormendo. Era morto. Trovarono lui e trovarono le sue scarpe. La pentola per i mirtilli doveva averla buttata via ad un certo punto tra Chamberlain e la zona acquitrinosa Harlow dove era morto. Probabilmente ci si era stretto ancora più forte sulle prime, come pensando che lo legasse alla casa e alla salvezza. Ma col crescere della paura e insieme con essa della sensazione di essere completamente solo, con l'arrivo del terrore vero, probabilmente l'aveva gettata via tra gli alberi da un lato o dall'altro della ferrovia, accorgendosi appena di non averla più. Cerchiamo dei rami e costruiamo una barella. Cominciava a vedersi la prima luce del giorno quando arrivarono al ponte su Kessel. Chris lo guardò, guardò il fiume, guardò i suoi amici e decise di passarci sopra. Lo attraversarono tutti. Nessun treno arrivò questa volta. Quando furono alla discarica, scavalcarono il reticolato. Nessuna traccia né di Milo né di Chopper. E andarono direttamente alla pompa. Vern la azionò e fecero tutti a turno a infilare la testa sotto il getto gelato, spruzzandosi l'acqua sul corpo e bevendo fino a non poterne più. Poi si rimisero le camicie perché la mattinata pareva gelata. Camminarono fino al paese e rimasero per un momento sul marciapiede davanti al terreno del loro club. Guardarono la casa sull'albero per non doversi guardare l'un l'altro. Il corpo di Ray Brower fu ritrovato. Alla fine decidemmo che una telefonata anonima fosse la soluzione migliore. Tornammo a casa. Molti pensieri si affollavano nella nostra mente, ma nessuno parlava. Camminammo tutta la notte. E arrivammo a Castle Rock alle 5 di una domenica mattina, ai primi di settembre. Eravamo stati via solo due giorni, eppure la città sembrava diversa, più piccola. Fecero uno o due isolati senza parlare. Castle Rock era spaventosamente silenziosa nella prima luce del giorno e Gordon avvertì la sensazione quasi soprannaturale della stanchezza che scivolava via. Era sveglio mentre tutto il resto del mondo dormiva. e si aspettava quasi di girare l'angolo e vedere la sua Dinah, in fondo a Carbine Street, dove i binari della ferrovia passano attraverso il cortile di carico della fabbrica. Non riuscirò mai ad andarmene da questo posto, vero Gordy? Puoi fare tutto, basta volerlo. Ah, sì, certo. Ci vediamo. Basta volerlo. Lo diranno che quei soldi avevo provato a restituirli e io farò la figura della femminuccia, disse Chris. Ci puoi scommettere che lo diranno, rispose Gordon. Ma non oggi e né domani, se è questo che ti preoccupa. Passerà molto tempo prima che lo dicano, credo. Anni, forse. Chris lo guardò sorpreso. Vern e Tommy ci persero un po' di sonno su questa storia che Chris aveva provato a restituire i soldi che aveva rubato, ma che alla fine il malloppo se lo era intascato la professoressa Simmons. E ci furono delle volte in quell'autunno che questa storia l'ebbero proprio sulla punta della lingua, lì lì per dirlo a qualcuno, ma non lo fecero. Può sembrare pazzesco, ma dimenticarono perfino che fosse mai successo. Fecero un altro isolato in silenzio. Take out the papers and the trash. Or you don't get no spending cash. If you don't scrub that kitchen floor, you ain't gonna rock and roll no more. Yaggedy yak! Audiogrammi Radio 24 è anche su Facebook. E in podcast su radio24.it. Avevano raggiunto l'angolo della strada di Gordon e si fermarono lì. Erano le 6:15. Verso il centro c'era il camion del Telegraph davanti al negozio dello zio di Teddy. Un uomo in jeans e maglietta gettò a terra un pacco di giornali. Il pacco rimbalzò capovolto sul marciapiede, mostrando i colori del supplemento dei fumetti. Poi il camion proseguì. L'autista è intento a consegnare il mondo esterno al resto delle successive fermate. Beh, ci vediamo a scuola. Già. Già. Al ginnasio. Beh, ragazzi, sarà meglio che vada prima che mia madre mi metta sulla lista dei ricercati. Ehi, Chris. Senza rancore, vero? Non ci pensare. Di lì a poco, Gordon si sarebbe iscritto ai corsi per il college, mentre i suoi amici avrebbero fatto i corsi professionali. Lui non avrebbe mai voluto separarsi da Chris, Teddy e Vern e sognava di mandare a monte i piani scolastici per non dover dividere la banda. Aveva già discusso e litigato con Chris su questo punto perché lui ne faceva una questione di principio. Gordon aveva il magico dono di saper raccontare una storia e doveva andare al college e diventare uno scrittore. Una volta avevano quasi fatto a botte per questa faccenda della scuola. Gordon avrebbe voluto dire qualche altra cosa, ma non sapeva come. Chris sorrise, quello stesso sorriso dolce e luminoso. Si allontanò sempre ridendo, muovendosi con agilità e con grazia come se non fosse tutto rotto e con le vesciche ai piedi come Gordon, e non fosse pieno di bolle, di morsi di zanzare e di calabroni e di tafani. Come se ne stesse andando in un gran bel posto invece che solo a casa. In una casa, una baracca sarebbe più vicino alla verità, di 3 stanze senza servizi e con le finestre rotte coperte di plastica e un fratello che probabilmente lo stava aspettando nel cortile davanti. Anche se Gordon avesse saputo la cosa giusta da dire, probabilmente non avrebbe saputo dirla. Col passare del tempo, perdemmo gradualmente i contatti con Teddy e Vern. Alla fine erano diventati soltanto 2 volti in mezzo alla folla. Succede qualche volta. Gli amici vanno e vengono nella vita, come i fattorini in un albergo. Seppi che Verne si era sposato dopo le superiori, che aveva 4 figli e faceva il manovratore di gru alla segheria Arsenault. Teddy aveva cercato di arruolarsi, ma era stato scartato per via dei suoi occhi e del suo orecchio. Poi seppi che era stato un paio di volte in prigione e faceva lavoretti saltuari a Castle Rock. Chris riuscì ad andarsene. Fece i corsi preuniversitari con me. E benché fosse dura per lui, ci mise tutto l'impegno possibile. Arrivò all'università e divenne avvocato. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by. I discorsi distruggono le funzioni dell'amore, credo. È un bel casino per uno scrittore dire una cosa del genere, penso. Ma sono sicuro che è così. Se parlate per dire a una daina che non avete nessuna intenzione di farle del male, quella svanisce in un batter di coda. La parola è danno. L'amore non è quello che i poeti come McEwan vogliono farvi credere. L'amore ha i denti mordono. E i morsi non guariscono mai. Nessuna parola, nessuna combinazione di parole può chiudere quelle ferite d'amore. È tutto il contrario, questo è il bello. Se quelle ferite si asciugano, le parole muoiono con loro. Credetemi pure, io mi sono fatto una vita con le parole. E so che è così. Stephen Edwin King. Che non lo vedessi da più di 10 anni, so che mi mancherà sempre. Ho avuto amici come quelli che avevo a 12 anni. Gesù. Ma chi li ha? I then go back to the house, hear that woman's mouth reaching and crying, tell me that I'm lying about a job. testo tratto dal racconto Il corpo, contenuto in Stagioni diverse di Stephen King, edizioni Sperling e Kuffler. Questa puntata è dedicata a mio fratello Alberto, alla sua chioma spettinata e al suo spirito gentile e generoso. Audiogrammi è un programma ideato e condotto da Laura Faggin e Paolo Corleoni. Voce Laura Faggin. I love you just the way you are.